Allora, dunque, avevamo già annunciato, poi c'è stato il problema della copertura del segnale, ma questa mattina a Taranto, peraltro diciamo già a fronte di una situazione estremamente complicata dopo la serrata di 48 ore fa annunciata dall'Ilva e dopo la risposta abbastanza compatta che si è poi trascinata per tutta la giornata di ieri con l'occupazione della direzione e una foltissima assemblea che ha radunato la maggior parte degli operai e dei lavoratori dell'acciaieria. Questa mattina è successo, mi verrebbe da dire, l'irreparabile, nel senso che ci ha pensato anche il maltempo, credo quantomeno che derivi anche da quello, insomma, l'incidente che si è verificato. Noi siamo collegati telefonicamente con Salvatore, al quale chiediamo una prima stima di quanto successo e soprattutto di spiegarci cos'è avvenuto. Pronto? Eccoci, eccoci Salvatore. Spero che mi sentiate bene. Sì, sentiamo forte allora, e chiaro. Sì. Hai detto bene, hai fatto bene nel quadro. Probabilmente stamattina avremmo dovuto fare un po' il resoconto, magari lo faremo pure, insomma, anche per quanto accadrà nelle prossime ore. Però stamattina, come dire, il maltempo ha sparigliato le carte, se vuoi invece le ha rimesse assolutamente a posto, perché a fronte di tutte le porcherie che va dicendo il governo, questi provvedimenti che intendono prendere per salvaguardare i profitti di IVA, stamattina, come dire, il maltempo ha messo le cose a posto, nel senso peggiore ovviamente del termine, poiché c'è stata una tromba d'aria violentissima, che almeno qui a Taranto si ricorda. Questo ovviamente io vi do, credermi, sono anche io in diretta con le notizie che mi arrivano via telefono in qualche modo, perché sennò lavoro da un'altra parte, e quindi ve le do proprio così, esattamente come le ho avute. Allora, è caduta una ciminiera di 80 metri, ci sono circa 20 feriti, perché poi è volato di tutto in Ilva, ma la cosa più grave è che è scoppiato un incendio e, come dire, si pensa a forme di evacuazione e dell'Ilva e del rione Tamburi, che come purtroppo è oramai notorio attraverso i miei report, ma non solo, è il quartiere vicinale all'Ilva, perché evidentemente si stanno in questa situazione scatenando tutti gli elementi inquinanti e tossici che potete pensare. Queste sono le prime notizie che io riesco a darvi, ma la situazione è estremamente drammatica. Infatti, vedete, non so se mi sentite ancora, mi stanno chiamando un po' dappertutto, appunto per cercare un pochettino di capire cosa in realtà stia succedendo. Però alcuni dati sull'evacuazione vi metto un punto interrogativo, ma gli altri dati fino adesso sono dati, diciamo, assunti insomma da internet e dai telegiornali che sono locali, che sono in diretta, insomma, e quindi la situazione è drammatica perché c'è tutta una parte della città assolutamente bloccata. Guardate, io non so cosa aggiungere, insomma, se uno è cattolico può dire che questa è la vendetta divina, insomma, se non lo è, come dire, dice che anche Giove Pluvio ha pensato appunto a ricordare a tutte e tutti, per chi per difendere l'interesse di IVA vuole dimenticare, che quel luogo è un luogo pericolosissimo per la città, perché è praticamente al fianco della città, fisicamente parlando. Non so se volevi chiedermi qualcosa. Senti, no, io non so se mi sentite. No, ti sentiamo molto bene, su sì, questo non ci sono problemi. Sì. Io magari passerei tra un po' a chiederti anche della situazione che si è venuta a creare ieri, dell'assemblea, eccetera. Ancora però, Salvatore, credo sia il caso di soffermarci su quanto sta avvenendo proprio in queste ore, perché mi sembra una situazione piuttosto grave. Dunque, alcuni lavoratori sono rimasti comunque illesi, nonostante il fatto che siano stati coinvolti direttamente nella tromba d'aria, insomma, che c'è stata. Leggo insomma le notizie, una serie di testimonianze di lavoratori. Come le recepisco, ve le riporto, perché si era parlato anche di un morto, però francamente non me la sento di darvela come notizia certa. Quella certa, quelle che vi posso dare per certo sono queste e tre: 20 feriti, una ciminiera di 80 metri caduta, è un incendio, perché è caduto anche un fulmine oltretutto. Non si è ben capito in che punto e quindi cosa si stia sprigionando in aria, e quindi punto, io mi fermo qui. Queste ve le posso dare assolutamente per certe, queste sono certe, queste notizie che io, che credo, come dire, siano estremamente gravi, di per sé basterebbero a far capire, ripeto, una parte della città è totalmente bloccata come traffico. Ma credo che questo possa già dare il senso della gravità della situazione. Sì, leggo che questa tromba d'aria ha di fatto determinato lo sprigionarsi di fiamme alte 50-60 metri proprio all'impianto dell'acciaieria, quindi... esatto, voglio dire, quindi cerco di recepire le ultimissime notizie, però ecco, sono sempre assolutamente parziali, assolutamente frammentari, certo, ancora in corso l'incendio. Pare che l'abbiano messo sotto controllo, il problema è che non riesci a sapere, sono dei compagni di lavoro, insomma, che mi stanno cercando un po' dappertutto, perché ovviamente c'è anche la preoccupazione per i propri cari, che magari non sai in questo momento in che punto della città si possono trovare, insomma, ecco. Quindi questa è la situazione, è estremamente drammatica, però estremamente drammatica, e ripeto, non so adesso che provvedimenti si prenderanno, insomma, già nell'aria sentiamo, noi che siamo un po' abituati a riconoscere purtroppo le puzze, no? Come dire, sentiamo degli odori diversi, insomma, o più carichi, come dire, che sono un certo tipo di odori di tutto questo che, insomma, ma l'ILVA, ma quanto la cementi le mettono nel territorio. Normalmente potremmo essere ingaggiati come dal Ministero dell'Ambiente come esperti delle puzze, sapendole riconoscere. Da dove provengono e di che cosa sono il prodotto. Talvolta, quando non le conosciamo ma sentiamo brusori alla gola o agli occhi, magari c'è qualcosa di cui non sappiamo che cosa si sia in realtà sprigionato. E adesso io che vi parlo ho la gola secca, stranamente, insomma. Quindi questo è il quadro, vabbè, non... vedremo prossimamente. Io so che la trasmissione fra un po' chiude, insomma, e quindi se ho ovviamente altre notizie ci risentiamo. Senti, io ne approfitterei, chiaramente per quell'altro ragionamento. Esatto, anche se mi sembra che, insomma, quando tu però ricevi notizie, anche seduta stante in diretta, insomma, magari interrompiti pure per darcele, confermare, insomma, la natura degli eventi. No, che diciamo che quelle tre che ti ho date per certe sono quelle, le possiamo certe annoverare su come questo, certe. Su questo non c'è discussione. Vincendo il crollo di questa linea, i 20 feriti sono certi. Come ci sono 4 dispersi, però pare che questi siano in mare, perché ovviamente è coinvolto anche il porto che è la gente, poi l'ILVA, e quindi, come dire, queste sono notizie. Ora, che vi posso in attesa, sostanzialmente per certo. In attesa di ulteriori notizie su questo fronte, Salvatore, dici com'è andata l'assemblea di ieri sera. Bene, sì, allora vabbè, sostanzialmente adesso, giusto per non farla lunga, tutta la vicenda da un punto di vista, come dire, dei lavoratori è stata gestita dal famoso comitato cittadini e lavoratori liberi e pensanti, perché sin da quando l'altro ieri c'era stata la notizia, i lavoratori del comitato avevano già venivano contattati dall'interno, perché i capi e i capetti, ovviamente su ordine di Riva, avevano detto a quelli del secondo turno di lunedì: finite di lavorare, a qualunque ora finite, da quel momento siete messi in libertà. Vabbè, questo meccanismo è una follia, perché non si trattava di licenziamento, non c'era nulla di scritto, non si parlava di cioè così d'amblè la gente doveva finire di lavorare e andare via. E allora hanno chiamato i lavoratori del comitato, chiedendo un intervento del comitato, cercando di capire. Il tutto ovviamente si è chiarito nel momento in cui, poco dopo, ne avevamo comunque una riunione lunedì pomeriggio, si è capito col comunicato che ha fatto l'Ilva, nel quale sostanzialmente dichiarava la serrata rispetto ai provvedimenti della magistratura, ecco, senza farla lunga. Da quel momento inizia il lungo percorso del comitato, che ci ha visto praticamente per 36 ore consecutive ed oltre impegnati, perché da subito si è, attraverso sempre i soli mezzi, telefonini, sms e quant'altro, abbiamo dato indicazione ai lavoratori di autoconvocarsi in assemblea davanti alle portinerie e bloccare le portinerie subito, immediatamente dopo questo comunicato Ilva. Cosa detto fatto, poi ci si è recati un po' i lavoratori Ilva, altri lavoratori come me, ma anche cittadini che fanno parte del comitato, invitando altri a venire sempre per decidere poi in assemblea i passaggi da fare. Questi passaggi ci sono, queste assemblee convocate sono riuscite benissimo, si è deciso per il presidio a partire, noi siamo arrivati circa alle 18, insomma, vicino lunedì sera, vicino le portinerie della fabbrica, e tenere bloccato, anche perché chi stava all'interno si era già fermato. Chi stava all'interno dei lavoratori si era già fermato e veniva davanti alle portinerie in attesa che arrivavamo noi, e chi era all'esterno ovviamente doveva essere bloccato e non farlo entrare, per poi in assemblea appunto decidere tutto quello che è da fare. Tenere presente che quella che è stata messa in libertà, ecco, diciamo così, era la cosiddetta aria a freddo, non l'aria a caldo, perché avevano ancora da bruciare del materiale il signor Riva, per poterne fare acciaio, anche se poi il materiale sarà comunque messo sotto sequestro. Dico, l'assemblea sono andate benissimo e si è deciso di pensare per tutta la notte tra lunedì e martedì, con l'intento il giorno dopo ieri, quindi passiamo alla giornata di ieri, per proporsi nei termini dell'occupazione sostanzialmente della direzione, quindi individuando in Riva il responsabile e ovviamente i suoi collusi, accoliti, che oggi sono anche un atto giudiziario, atti giudiziari, proprio per uno scontro frontale, insomma, con la proprietà, che voglio dire, invece che mettere a posto, insomma, a norma il proprio impianto, fa le serrate sostanzialmente, ecco, per farla molto molto molto molto breve. Fino a Wilm, dopo forse due ore e mezza, tre, che noi stavamo già in presidio e non stava uscendo più nessuno, non stava entrando più nessuno in Ilva, così proclamano uno sciopero oltranza, ma senza neanche avere il coraggio di questo lunedì sera di presentarsi alle portinerie, anzi addirittura hanno mandato i vigilanti a affiggere in due bacchette ai sindacali il proprio comunicato, fatto 10 parole e quant'altro, e ovviamente senza mai affondare il colpo verso padron Riva, questo mi sembra abbastanza scontato. Dicevo, ieri mattina ci sono tenuti cortei interni, bloccata per tutta la notte, bloccata l'entrata del primo turno di ieri, dopodiché ci si è messi in termini di cortei interni, ma praticamente l'Ilva è stata aperta, nel senso che i tornelli sono stati aperti, gli stessi vigilanti non badavano, perché molti di noi che non siamo lavoratori di Ilva siamo potuti tranquillamente entrare dentro per andare a questa assemblea auto-organizzata sotto la direzione, intanto si occupava la direzione. La partecipazione è stata eccellente, direi che praticamente c'erano migliaia di lavoratori, e stavolta diciamo che invece dell'APECAR abbiamo usato un mezzo Ilva, un camioncino Ilva scoperto, abbiamo messo sulle casse e quant'altro come comitato, e per tenere l'assemblea ovviamente l'abbiamo gentilmente preso in prestito, cioè, ecco, diciamo così, per essere eufemistici, e l'assemblea è andata molto molto molto bene, perché ha rotto gli argini e i lavoratori, poiché oramai hanno rotto materialmente, insomma, con Fiamma e Wilm, che sono ovviamente una grossa componente di tutto quello che sta accadendo in quell'azienda, in questo territorio, sono assolutamente corresponsabili, sono stati mandati tranquillamente a quel paese, e l'assemblea, ripeto, di migliaia di lavoratori ha deciso di rappresentarsi, mandando come propri delegati, come rappresentanti, i lavoratori ILVA, che sono parte organica di questo comitato, sostanzialmente ci siamo autorappresentati. E c'era, questo anche perché in direzione Fini, Fiume e Wilm dovevano avere un incontro con Buffa, che è il direttore dello stabilimento di Taranto, forse per provare, non so, a fare che, le solite magagne. Bene, e gli è andata a buca, perché poi in realtà lì sopra, cioè, io non sono riuscito manco ad arrivare alla stanza, perché c'erano almeno 200 persone che avevano materialmente occupato la palazzina, e migliaia ce n'erano giù alla palazzina. I lavoratori del comitato hanno chiesto delle cose molto precise: il ritiro immediato di questa messa in libertà, immediato. Ovviamente non si dovevano sognare di alcun ammortizzatore sociale in questa fase, che tutti questi giorni fossero a totale carico dell'azienda, no? Questi giorni sono degli impianti che comunque c'è, perché appunto la magistratura ha bloccato tutto, ha fermato tutto, quindi e mi arrivano intanto telefonate, però io intanto cerco di stare in diretta, poi eventualmente vi richiamo. Vi dicevo, e soprattutto che venga fuori entro il 31-12 il vero piano industriale, per quanto riguarda la messa a norma, ma quant'altro, no? Ora, ovviamente, e hanno chiesto, lì era dato una risposta estremamente evasiva e buffa, e i lavoratori nostri, diciamo, del comitato, hanno chiesto che lui venisse giù di fronte ai lavoratori a dire esattamente le cose, proprio perché questa cosa fosse pubblica, che non solo i delegati, seppure in un momento di auto, come dire, dell'auto rappresentarsi, era bene che venisse lui giù a dire le cose che aveva detto a chi, ai lavoratori del comitato. E dirò, è sceso giù Buffa in realtà, e l'unica cosa, ovviamente, ed è un oggettivo risultato che il comitato ha portato a casa, è stato che in realtà sono stati riattivati i budget, avevo dimenticato di dire che erano stati automaticamente disattivati dall'azienda il lunedì sera, e che quindi tutti i giorni saranno a carico di blocco, saranno a carico della proprietà. Anche se Buffa ha precisato solo per 7 giorni, perché 7 giorni, perché l'ILVA ha impugnato il provvedimento della magistratura, entro 7 giorni ci dovrebbe essere il riesame. Intanto, come sapete, si era mobilitato Ponti, intanto, come credo sapete, si era mobilitato Clini, che ha pensato a un provvedimento titolo di scariche, ovvero, io non so se ancora voi mi sentite, come mi sentite? Ti sentiamo. Ah, perfetto, che c'è dei momenti di vuoto nel telefonino. Allora, dicevo, Clini, dicevo, appunto, che è intervenuto, come dire, a piedi uniti, pensando ed ipotizzando, anche se il messaggero oggi questa ipotesi riteneva poco possibile, e cioè creare, così come per le discariche, come sito di interesse nazionale, e quindi militarizzarlo. E pare che Monti non sia d'accordo, questo dice il messaggero, ma vedremo questo nelle prossime ore. Tenendo presente peraltro che, come scrive sappiate, domani c'è un incontro a Roma. Come comitato abbiamo detto che quei tavoli non ci interessano, che tutte le discussioni vanno fatte sul territorio, il governo deve venire a Taranto, perché il problema è qui, e che non ci saranno tavoli dove i lavoratori non abbiano la possibilità di autorappresentarsi. Peraltro noi pensiamo che quello è un tavolo falso, è solo, come dire, per tenere un po' ferma la situazione, un po' calmi i lavoratori, no? In attesa appunto del riesame e di quant'altro. Vedremo cosa accadrà, ma come comitato stamattina si esce con un comunicato: questi tavoli non ci appartengono. Tenete presente che ovviamente a un certo punto, torno un attimo, faccio un passo indietro all'assemblea ieri mattina, ovviamente comunque era importante aver portato a casa questo risultato, diciamo, l'importante portare a casa questo risultato, cioè che i lavoratori non rimanessero scoperti comunque noi avremmo preteso per tutto il periodo. Loro hanno detto 7 giorni, intanto, come dire, abbiamo incassato ovviamente come risultato, perché viene veramente da un, come dire, da un protagonismo dal basso, direi che raramente si è visto in quell'azienda per una serie di motivi che adesso sarebbe lungo qui spiegare. Poi noi avevamo pensato ad un presidio costante per questi 7 giorni, ma ci siamo resi conto già da ieri che la cosa sarebbe stata un po' difficoltosa, e quindi si è fatta un'iniziativa ieri sera con presidio, c'erano circa 500 persone alle 9 di sera davanti alla fabbrica con un po' di freddo, che non sono poche. Abbiamo proiettato un video del comitato, diciamo che un po' la storia fino a un certo punto, ovviamente non con gli ultimi avvenimenti, ma soprattutto come c'è questa capacità di costruire dal basso taluni percorsi e la capacità appunto di non delegare, no, diciamo essere nell'ordine delle idee, di non delegare più nulla a nessuno, anche perché voglio dire sia la parte politica che la parte sindacale ha dimostrato quanto fosse collusa, insomma basta leggersi per dire il Fatto Quotidiano di ieri, ci si c'è di tutto, parlamentari, presidente della regione, presidente della provincia, sindaco di Taranto, che ha avuto anche lui l'avviso di garanzia, c'è uno della Digos che conosciamo benissimo, che riferiva a Riva quando la magistratura doveva fare degli interventi, diciamo, no? All'improvviso, ovviamente non li venivano più all'improvviso. Oggi ha avuto c'è il segretario dell'ex arcivescovo di pure di Taranto, sbaglio. Come? C'è anche il segretario dell'ex arcivescovo di Taranto. C'è sì. No, qui vi racconto un episodio, anche se il quadro è un po' drammatico, vi racconto un episodio da ridere, perché quando si è salito sulla palazzina un lavoratore ha trovato una targa di una chiesa in cui si ringraziava Riva per la donazione che avevo fatto a questa chiesa. Allora mentre si faceva l'assemblea giù, di fronte al lavoratore ha detto questi sono, insomma, sì è vero, perché l'hanno per falsa testimonianza, perché mi diceva che in realtà questi avevano 10.000 euro da dare ai bisognosi, in realtà era una tangente legata, diciamo, a tutta la vicenda dei periti corrotti da Riva per farsi dare, insomma, delle perizie favorevoli, insomma, no? E per questo uno è ai domiciliari col precedente provvedimento. Ma è noto a tutti in questo territorio che l'arcivescovado ha avuto 375.000 euro, quelli che sappiamo. Insomma, quindi da tutta questa inchiesta, siamo in questo quadro. Da tutta questa vicenda esce fuori in modo molto chiaro che... Sì. Specificando il perché, ovviamente a noi quella di domani a Roma ci sembra una farsa, ma ti dico, c'è una dichiarazione di uno della FIOM che teme che ci sia scarsa partecipazione dei lavoratori. E la cosa è molto probabile, perché non c'è alcuna fiducia in questi soggetti, quindi lì a Roma probabilmente si porteranno i soliti nudi con annesso e connesso cestino, probabilmente anche in questo caso fornito da Riva, come ha fatto quando facevano uscire fuori i lavoratori a suo sostegno e contro l'intervento della magistratura, e temono, secondo me, che gli vada, da un punto di vista di partecipazione da Taranto, gli vada abbastanza male. Probabilmente si faranno forza con i lavoratori di Genova, che ancora probabilmente non hanno ben capito il percorso che non che sta facendo il comitato, ma che sta facendo, diciamo, questa città, questo territorio, tra lavoratori ILVA e cittadini, stanchi di dover subire ricatto occupazionale, voglio dire stanchi di dover essere inquinati e morire di tumore, di tutti i mali che l'inquinamento di questa azienda porta. Ora, comunque il risultato a casa l'abbiamo portato. Noi saremo in presidio domani davanti alla fabbrica, appunto per essere pronti, diciamo, a qualunque iniziativa. Noi avevamo già programmato per il 15 dicembre una manifestazione territoriale definendola Taranto Libera, appunto liberarci da questa politica, da questo sindacato, da questo sistema di potere, no? Che ha devastato questo territorio, ha posto sotto ricatto i lavoratori, ha livelli di disoccupazione altissimi, nonostante questa tragica presenza di questo mostro. Bene, non sappiamo se la terremo, perché intanto è programmata, però diciamo ci sono delle scusa un attimo. Qui continua a esserci un ventaccio, qui pure sul lavoro ma ci sono cascate delle cose, vabbè. Allora scusatemi, perché qui siamo in vera diretta, questo è il brutto della diretta in questo caso. Dicevo, quindi questa manifestazione invece l'abbiamo fissata per il 15 dicembre, però ovviamente ci potrebbero essere delle variazioni sulla base di quello che accade fra 7 giorni, sulla base di quello che sarà questo decreto legge che Clini ha anticipato, perché ovviamente a qualunque diciamo iniziativa che il governo prenderà, e la prenderà ovviamente, ribadisco, negli interessi di padroneria, va data una legittima risposta da parte del territorio, e credo che ci siano le condizioni per farlo. Mi scuso per la considerazione, il momento è estremamente particolare, spero di essere stato chiaro sia nell'esposizione dei fatti, sia perché noi a Roma non ci andremo manco morti, e un po' su tutti questi accadimenti di queste ore. Va bene Salvatore, no, io volevo solo ribadire il fatto che quanto mai importante il fatto che l'iniziativa degli operai a questo punto della vertenza si caratterizzi per questa forte indipendenza, in modo tale che si creino le condizioni, come dire, per una exit strategy da questa situazione, tale da inchiodare insomma ognuno alle proprie responsabilità, in modo tale anche da non appiattirsi rispetto ai diversi poteri, peraltro anche forse in scontro tra loro, quantomeno nell'ipotesi, sì, nell'ipotesi in cui in dovesse passare fatto, soprattutto la proposta di commissariamento di Clini. Hai sintetizzato benissimo, perché è chiaro che noi in questi conflitti interistituzionali non ci ficchiamo manco morti, per capirsi, nel senso che finiremmo tritati. Noi siamo altro, noi rappresentiamo la città, ma non rappresentiamo, vogliamo che questo comitato, poi il nome potrà essere quello o un altro, ma che soprattutto ci sia come c'è stato fino adesso, come diciamo, nelle nostre iniziative è capitato, c'è una partecipazione diretta attiva dei lavoratori e dei cittadini, e insieme pretendono dal basso il risarcimento, pretendono dal basso di costruire un nuovo futuro per questa città, un nuovo futuro, come dire, fatto come se vuoi anche di forme proprio di contropotere, di conquistarsi gli spazi occupazionali, insomma invertire, ecco, di 180 gradi le logiche. Nessuno di noi più è intenzionato ad andare col cappello in mano a chiedere a chi che guarda sia. Salvatore, lo purtroppo, pretendiamo e lo pretendiamo dal basso. Ecco, ti devo dire, purtroppo sembra ci sia un morto comunque a Taranto. Ti ripeto, sì, è possibile. È possibile, cui, vabbè, è possibile. Adesso vediamo cosa. Un attimo di accertarlo, e anche tu magari sicuramente avrei vedo di accertarlo, avrai. Magari vi chiamo fra un po', va bene? Va bene, okay. Grazie, ci sentiamo più tardi. Ciao, abbraccio ciao. Tutti. Ciao, abbraccio ciao, tutti. Grazie, ciao. Ciao, ciao.